10? Allora, sono all'incrocio esattamente da via dei Fori Imperiali e via Cavour. In lontananza si vede due, oramai solo una, di colonne di fumo, un SUV stato spugnato. In fondo si vedono i pompieri che sono già intervenuti su una, sulla prima auto messa a fuoco, e di fronte il corteo adesso sta deponendo sul percorso urbano. A destra ci sono delle camionette che sinceramente io non ho mai visto, sono nuove, sono super blindate, diciamo, e sono tutte chiuse, sigillate, hanno chiuso la strada verso Piazza Venezia. Il corteo che fluisce verso il Colosseo è tantissima gente. Questo è quello che io posso dire al momento. Va bene, grazie mille di nuovo, ci risentiamo dopo.